Storie italiane. Il principe e le tre sorti. C'era una volta un bambino nato da un re e una regina che da tempo desideravano avere un figlio. Ciò portò grande gioia nel regno, poiché finalmente avevano un erede al trono. Il bambino si chiamava Inaros e fu organizzata una grande festa per tutti. Il re invitò la fata madrina a benedire l'occasione, ma nel momento in cui lei posò gli occhi sul principe appena nato, il suo sorriso gioioso si trasformò in un cipiglio. C'è qualcosa che ti disturba? È un bambino bellissimo, ma è un vero peccato ciò che il futuro ha in serbo per lui. Cosa vuoi dire? È scritto nel suo destino che dovrà affrontare un grave pericolo portato da un serpente, un coccodrillo o un cane. Se potessi salvarlo, lo farei, ma questo va oltre i miei poteri. Il re rimase scioccato e terribilmente preoccupato. In gran fretta costruì una fortezza su una collina per proteggere il suo unico figlio. Nominò delle guardie per tenere d'occhio tutto il giorno. Inaros crebbe all'interno del recinto della fortezza. C'erano insegnanti per la sua educazione e per l'addestramento al combattimento. L'unico legame che aveva con il mondo era attraverso le gigantesche finestre del palazzo che si affacciavano sul regno. Un giorno, Inaros vide dalla finestra un cucciolo che giocava e chiese alla guardia di portarglielo. Quel cucciolo è così carino! Vai a prenderlo per me! La guardia fu perplessa perché sapeva del destino di Inaros, ma non poteva tradire gli ordini del principe. Quindi andò dal re. Un cane? Non conosci la profezia? Sarà un serpente, un coccodrillo o un cane ad ucciderlo. Mentre il re continuava a rimproverare la guardia, Inaros corse fuori dalle porte del palazzo per giocare con il cucciolo. Prese il cucciolo e tornò indietro. Per favore, padre, prometto che mi prenderò cura di lui. Per favore, lasciami tenerlo. Vedendolo ridere e giocare con il cucciolo, il re decise di lasciarlo stare. Oh, grazie, padre. Ti chiamerò Fluffy. Ed io e tu saremo amici per sempre. Passarono i giorni, passarono gli anni e Inaros crebbe fino a diventare un bel giovane. Inaros mantenne sempre il desiderio di esplorare il mondo. Padre, perché mi tieni chiuso in questo palazzo? Non sei consapevole dei pericoli che si trovano nel mondo esterno. Sono consapevole della profezia, ma guarda me e Fluffy, siamo inseparabili. Non pensi che almeno una parte della profezia sia stata infranta? E se devo essere un buon re, devo essere consapevole di tutto ciò che sta accadendo in tutto il mondo. Molto bene allora, non ti fermerò. Vai ed esplora il mondo, ma, figlio mio, stai attento. Oh, grazie, padre. Starò molto attento. Il giorno successivo, Fluffy e Inaros salparono su una nave diretti verso un regno lontano. Durante il loro viaggio, incontrarono un forte temporale. L'albero della nave si spezzò e i passeggeri a bordo persero l'equilibrio e alcuni di loro caddero in mare. Fluffy non si vedeva da nessuna parte e Inaros era preoccupato. Fluffy! Fluffy, dove sei? Dove sei? Senza pensarci due volte, Inaros saltò in mare per salvare il suo migliore amico. Oh, Fluffy! Mio caro Fluffy! Non posso perderti! Mentre si abbracciavano, Inaros notò un coccodrillo che stava nuotando verso di loro. Tenendo Fluffy stretto, nuotò in fretta verso la nave. All'improvviso, il coccodrillo sembrò spaventato e si immerse subito in mare. Inaros fu sorpreso e quando si voltò, vide una bella ragazza in piedi con un arco e una freccia sulla nave. Sali a bordo, velocemente. Grazie. Nessuno ti ha detto che non dovresti nuotare durante un temporale, eh? Oh, grazie! Non solo hai salvato me, ma hai salvato anche il mio piccolo migliore amico. Posso avere il privilegio di sapere il tuo nome? Sono Elena, principessa del regno dell'Alabama. Ah! E cosa porta una principessa a bordo di una nave piena di gente comune? Volevo esplorare il mondo, ma mio padre voleva che sposassi un principe. Così ho deciso di intraprendere una piccola avventura prima che il mio destino venga segnato. Inaros rimase molto colpito dal suo coraggio. Dimmi, cosa ti porta qui? Io sono Inaros. Io sono un commerciante. Sto solo viaggiando per affari. E così i due continuarono a parlare durante il viaggio. La nave raggiunse l'Alabama, dove Elena e Inaros scesero con Fluffy dietro di loro. Il re e il suo esercito stavano aspettando sulla riva per riportare Elena a palazzo. Vedendo lo sconosciuto con lei, lo arrestarono. No, lasciala andare! Non ha fatto nulla! Chi sei, straniero? E che affari hai con mio figlio? Capendo che non poteva più mentire, Inaros rivelò la sua vera identità. Espresse anche il desiderio di sposare Elena, se loro fossero stati d'accordo. Oh, perdonami, caro principe. Guardie, toglietegli immediatamente le catene e dategli la stanza migliore del nostro palazzo. Devi essere stanco. Perché non fai un bel bagno caldo e ti unisci a noi per cena? Mentre mangiavano e parlavano, il re si affezionò a Inaros e propose di pianificare il matrimonio. Sia il re che le regine si incontrarono per l'alleanza matrimoniale. Fu organizzato un matrimonio reale per Inaros ed Elena, ma Inaros non voleva tenere la verità del suo destino nascosta alla moglie. Cos'è successo, Inaros? Perché mi chiami qui 2 ore prima che ci scambiamo i voti nuziali? Va tutto bene? Non sei contento del matrimonio? C'è qualcosa che devo dirti. Non posso più nasconderti questo. Cosa c'è, caro? Inaros le raccontò della profezia predetta dalla fata madrina. Le disse anche che, poiché lei lo aveva salvato dal coccodrillo, il secondo dei suoi destini era già stato sconfitto. Non credo a tutto questo, ma credo nell'amore e voglio passare il resto della mia vita con te. Qualunque ostacolo dovremo affrontare in futuro, lo combatteremo insieme e sarò sempre lì a proteggerti. E amo anche te. E così si sposarono. Tutti celebrarono e furono felici. Oh, è così bella! Sono una coppia così carina! Lunga vita al principe e alla principessa! Insieme, Elena e Inaros dedicarono le loro vite al benessere del popolo. Il popolo li amava moltissimo. E così divennero il nuovo re e la nuova regina. Lunga vita al nuovo re! Una notte, quando Inaros ed Elena stavano dormendo, lei notò qualcosa strisciare nell'ombra, scivolando lentamente verso suo marito. Mentre si avvicinava, capì che era un serpente. Aha! Ho aspettato che arrivasse quel giorno! Elena mise una ciotola di latte davanti al serpente. Balzò verso il latte e lo beve in fretta. Dopo aver finito l'ultima goccia, si addormentò. L'intelligente e arguta Elena aveva anticipato l'arrivo del serpente e così aveva messo una ciotola di latte mescolata con erbe magiche al suo fianco. Questo l'avrebbe fatto addormentare. Quindi ordinò alle guardie di prendere il serpente e gettarlo in una palude a migliaia di distanza. Elena aveva sconfitto il terzo e ultimo destino di Inaros e lo aveva protetto per tutto il tempo con la sua intelligenza e lungimiranza. Elena e Inaros si imbarcarono in spedizioni per esplorare il mondo insieme e vissero felici e contenti. Insieme superarono gli ostacoli e la paura e ora sono più coraggiosi che mai.